hanno detto al telegiornale che devi vaccinarti altrimenti puoi morire. Lo devi fare per il bene comune, per solidarietà, la nuova normalità. Sarà il tuo futuro, non devi temere, per il tuo bene indietro non si tornerà. La prima pagina in edicola del giornale, campeggia un grande titolo, obbligo non si dare. Andremo casa per casa, diceva il generale, sanzioneremo tutti gli over 50 che non si faranno curare. Ti renderemo la vita difficile, diceva l'idiota in TV, mentre davano numeri alla cazzo di cane. La combricola della speranza, con le mascherine, le canzoncine, i balletti e la pubblicità. L'hanno detto in TV. Tra immagini e pixel e suoni famosi della pubblicità.